Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Questa foto satellitare scattata il 18 marzo riapre uno spiraglio nelle ricerche dell'aereo malese scomparso l'8 marzo scorso con 239 persone a bordo. Avvistati nell'Oceano Indiano Meridionale due oggetti sfocati di grosse dimensioni, uno lungo 22 metri e largo 13, l'altro poco più piccolo, che galleggiano a 2500 km di distanza dalla costa australiana. Molto probabilmente si tratta di rottami di un aereo. Sono immagini credibili per le autorità di Kuala Lumpur. La conferma arriva dal ministro dei trasporti malese, che in conferenza stampa dichiara: abbiamo una nuova pista, e scattano subito le operazioni di recupero degli oggetti avvistati. Inviati sul posto quattro aerei e una nave che nell'arco di pochi giorni dovranno scandagliare una vasta area di 26.000 km quadrati. Se verrà poi confermata la notizia che i due oggetti... Ne abbiamo parlato una settimana fa, come di un mistero abbastanza spesso. È passata un'altra settimana e il mistero si fa ancora più misterioso. Ricordo che il tema è il volo senza arrivo, perlomeno ufficiale, del Boeing 77-200 con 239 passeggeri a bordo. Il volo MH370 partito l'8 marzo da Kuala Lumpur diretto a Pechino, ma dopo le 21.35 non se ne è saputo più nulla. E noi questa mattina siamo qui per rifare un punto su questa vicenda che, per quanto misteriosa, per quanto affascinante, per quanto ormai è tracimata decisamente nel mondo della fantascienza, non ha la necessaria attenzione da almeno i mezzi di informazione del nostro paese, o perlomeno ha qualche barlume di attenzione con tentativi di maggior approfondimento, ma sembra talmente lontana dalle nostre percezioni, solo per il fatto che non esistano a bordo passeggeri italiani, che ancora viene messa nel bagaglio delle vicende di cui si parlerà magari tra qualche anno, quando qualcuno ci farà un film sopra, quando vincerà qualche premio, quando si andrà al cinema, si guarda, abbiamo passato qualcosa di misterioso e manco ce ne siamo accorti. 800240024, una breve rassegna di quelle che erano le cose più interessanti uscite nella nostra puntata dedicata a questo mistero. Alcuni aerei, non so se il 77 aveva, diciamo così, il segnalatore quando c'è un ammaraggio, se cade, in poche parole, si attiva da solo. Molti aerei ce l'hanno. C'erano 20 tecnici informatici, tutti insieme sullo stesso volo, appartenenti a 5 team di una società che studia come eludere i servizi segreti. Dopo l'11 settembre tutti gli aerei che sono in volo sono controllati, quindi quando un aereo esce fuori rotta per paura di attentati, secondo me, o è stato abbattuto, quindi i militari ne sapranno sicuramente di più. Gli Stati Uniti, da quando hanno ceduto a Google il sistema di satelliti di rilevazione Keol, ne hanno uno molto più avanzato, che si occupa di rilevare qualsiasi traccia termica, se lo vogliono. Di conseguenza hanno tracciato quello come qualsiasi altro velivolo. Questa è una sintesi di pareri presi a caldo da nostri ascoltatori, persone qualsiasi che hanno ascoltato la radio e hanno dato il loro contributo. Ognuno ha delle competenze nelle loro singole professioni. Uno è stato per tanti anni impegnato come motorista nella costruzione degli aerei, ci dice c'è un dispositivo che segnala al fabbricante del motore se ci sono dei problemi. In questo caso le notizie dicono che la Rolls-Royce, che è la azienda che ha prodotto i motori di questo aereo, dice che è stato disinnescato questo meccanismo di controllo, che è una cosa abbastanza complicata, bisogna farlo manualmente, non si può fare in automatico. Ma voglio dare subito un'idea di quale sia la complessità, analizzando almeno altre fonti rispetto a quelle ufficiali, di questa vicenda. Alessandra Zavatta, buongiorno. Buongiorno a voi. Alessandra Zavatta è la collega del Tempo, una giornalista che segue dall'inizio questa vicenda con grande acume e con grande ricchezza di particolari. Alessandra, quali sono le tue fonti? Perché tu ogni giorno fai una pagina, l'ultima adesso la riassumeremo su questa vicenda, e non vedo in altri giornali una così capillare ricchezza di particolari. Perché in parte noi ci rifacciamo anche alle investigazioni, diciamo, che fa la polizia malese. I vari reporter malesi che si occupano di cronaca nera riportano punto per punto le investigazioni, come farebbero i nostri reporter per qualsiasi cosa di cronaca nera a Roma e in Italia. Quindi sono fonti aperte, chiunque se avesse voglia se le potrebbe andare a cercare, come hai fatto tu. Sì, in teoria sì, in diverse lingue ovviamente, perché nessuna è in italiano di queste fonti, però ognuno mette il suo piccolo contributo unendole, facendoci un ragionamento, analizzando e sentendo poi anche i nostri esperti piloti, esperti di motori, come voi avete detto, ci siamo fatti un quadro per cui c'è molto poco chiaro su questa vicenda. Ecco, fammi una sintesi, diciamo, del tuo ultimo pezzo, con tutte le implicazioni che secondo te merita comunque attenzione, vadano verificate con delle conferme ufficiali, però hai fatto un quadro molto interessante. Considerando che oggi le ultimissime notizie di oggi è che sia la polizia malese che l'FBI stanno indagando su una strana telefonata che il pilota, il comandante del volo 370, ha ricevuto mentre era in cabina in attesa del volo. Hanno capito che questa chiamata veniva da una scheda telefonica con un numero falsificato, e già questo è un mistero. Perché in malese è molto difficile, diciamo, fare azioni del genere, non è così facile falsificare un telefono. No, perché sono controllati, sono aree comunque dove c'è terrorismo e dove si controlla molto, visto che potrebbero essere, diciamo, loro stessi, diciamo, oggetto di basi terroristiche. Però la polizia finora ha sempre escluso l'ipotesi di terrorismo, si orienta più su dirottamento, sabotaggio, un dirottamento finito male con aereo che è precipitato. Ma quello che noi abbiamo analizzato pezzo per pezzo, abbiamo visto che quando l'aereo è tornato indietro ha cambiato rotta e ha spento tutti i segnalatori possibili, che sono stati spenti ovviamente da bordo secondo la polizia, perché non potevano essere spenti. C'è anche un sistema, diciamo, di collegamento wifi che può essere fatto da un altro luogo, che comanda alcune funzioni dell'aereo ma non quelle. Quindi sopra l'aereo c'era qualcuno che ha spento tutti i segnalatori volutamente, è salito dalla quota base che era 25.000 piedi, 30.000 piedi, è salito a 45.000. Di più non poteva andare perché quell'aereo non regge più di quell'altezza, è fatto per una certa altezza, e poi è sceso di corsa a 5.000 piedi. Che è bassissimo, 5.000 piedi. Pochissimo, saranno 2 km, 3 km. Sì, sono 3.000 metri circa. E quindi no, per sfuggire ai radar, in parte ci è riuscito. Diciamo, considerando che mezzanotte e 40 è partito, all'1:15, all'1:20 è tornato indietro, fino alle 2:40 i radar militari l'hanno comunque visto e girava sopra la Malesia. Dalle 2:40 i radar militari non l'hanno più visto, alle 8:11 l'ha visto un satellite che stava in mezzo all'Oceano Indiano, però per effetto della curvatura della Terra non hanno capito se l'aereo andava verso sud o verso nord. Quindi si sono orientate le ricerche verso sud nell'Oceano Indiano, verso nord su tutto un arco che andava dalla Thailandia al Kazakistan. Tutti i paesi dalla Thailandia al Kazakistan hanno consegnato i loro tracciati radar alla Malesia per vedere se c'era qualcosa di strano, c'erano solo aerei controllati. Pare che tutto quello che era in volo in quel momento, tra l'altro molto poco, essendo quasi di notte in tutta l'Asia, c'era molto poco in volo, era tutto controllato e sapevano cos'era, almeno così dicono. Invece nella parte dell'Oceano Indiano a sud ci sono stati diversi episodi insoliti. Prima di tutto l'unica diciamo base radar che non ha consegnato i suoi tracciati è una base militare americana che si trova nelle isole Chagos. La base americana si chiama Diego Garcia, che non è una piccola base, ma è la base più importante dove sono partiti i bombardieri che poi sono andati prima in Kuwait, poi in Iraq, poi in Afghanistan, cioè una base per bombardieri importantissima. Quindi c'è un'ipotesi che potrebbe essere atterrato la Diego Garcia? Potrebbe essere atterrato lì, perché? Perché queste isole Chagos stanno sotto le Maldive, poco distante. Poco prima, diciamo che il radar lo captava, qualcuno alle Maldive, anzi più di qualcuno, perché erano un centinaio di persone di un villaggio, compreso l'assessore del villaggio, praticamente hanno sentito un aereo che passava bassissimo, in un posto dove in genere non passano aerei bassissimi, sono usciti perché ovviamente si preoccupavano, sta avvenendo, invece hanno solamente visto un aereo bianco grandissimo con delle strisce rosse, questo hanno raccontato, che andava ancora verso sud. E corrisponderebbe, diciamo, con le caratteristiche dell'aereo scomparso? Corrisponderebbe secondo loro. Allora la polizia in un primo momento locale ha smentito, poi però di fatto ha aperto un'inchiesta e c'è la polizia malese che va chiedendo i risultati di questa inchiesta. Senti, poi c'è un altro episodio che legherebbe, facendo un salto, una ricostruzione naturalmente ancora non accertabile in tutti i suoi passaggi, con una misteriosa esplosione avvenuta nel Nuovo Messico. Sì, praticamente l'aereo è scomparso, diciamo, l'8 marzo, poi non si sa ufficialmente dove è andato. Tra il 18 e il 19 marzo diciamo, c'è un'esplosione grandissima in un'area del Nuovo Messico, dove però gli Stati Uniti, diciamo, è un'area militare dove fanno prove di esplosioni, di materiale nucleare, di armi chimiche, provano le loro cose. Però questa esplosione, ecco, è stata così grande che il fumo che si è sollevato è arrivato fino in Texas e ha girato verso l'Oklahoma. Questo lo vediamo da tutti i comitati locali e le varie città locali che protestano: ma che cosa hanno fatto esplodere? È nucleare? Non è nucleare? Cosa stanno provando? E quale potrebbe essere il nesso fra questa esplosione e l'aereo scomparso? E la base Garcia? C'è praticamente un giornale di geopolitica europea, European Times, che sostiene, ovviamente riporta un rapporto dei servizi segreti in cui si dice che l'aereo scomparso di fatto non è scomparso, ma è semplicemente stato fatto atterrare, diciamo, a questa isola di Diego Garcia, e perché c'era un carico importante dentro. Mentre questo aereo si trovava lì, diciamo, guarda caso, verso Diego Garcia sono arrivati altri voli in cui c'erano dei rappresentanti del Ministero della Sanità cinese e del Ministero della Sanità americana. Dopo che questi se ne sono riandati il giorno dopo, casualmente è avvenuta l'esplosione in Messico. Quindi o c'era un carico pericoloso che hanno preferito distruggere, questa è l'ipotesi, che diciamo dal punto di vista pratico potrebbe anche essere il fatto che il manifesto di carico, cioè la lista di tutto quello che è caricato nell'aereo, ancora oggi la polizia e la compagnia non lo dà, mentre la lista passeggeri e moltissimi altri dati sono stati dati al mondo. Allora riassumo, vediamo se ho capito bene, Alessandro. Il quadro naturalmente è basato sulla tua raccolta di informazioni da fonti malesi, da fonti locali. Un grande fatica hai collazionato, hai tradotto, hai messo in fila. Un carico misterioso viene scaricato da una nave in cui scompaiono, vengono uccisi due agenti che lo sorvegliavano. Questo carico in teoria potrebbe essere stato anche messo su questo volo. Il volo passa sopra una base americana, probabilmente, perlomeno è un'ipotesi probabile e plausibile. Sì. L'aereo scompare. Nel Nuovo Messico c'è una bomba gigantesca e non si capisce cosa hanno fatto esplodere. Quindi uno potrebbe pensare, gli americani, la traduco perché tanto è nell'area, hanno dirottato quest'aereo per capire cosa c'era dentro, per sapere c'era qualcosa di molto importante, hanno preso questa cosa, l'hanno fatta esplodere perché era qualcosa che non doveva rimanere comunque attivo. Certo, rimane la domanda, tutti quei morti oppure tutti quei passeggeri che fine abbiano fatto? Potrebbero, sì, in teoria potrebbero essere prigionieri oppure potrebbero anche non esserci più. Ad alimentare il mistero c'è anche il fatto che il governo cinese, quando l'aereo andava da Kuala Lumpur a Pechino, già sapeva che non lo faceva arrivare a Pechino, ma lo faceva atterrare nella prima isola disponibile del territorio cinese. Perché questo cambiamento di rotta? Perché sapevano che forse c'era qualcosa sopra, che era meglio non farlo arrivare in una grande città nel mezzo di uno stato, volevano guardarlo. Ma poco prima che entrava nello spazio aereo cinese, l'aereo è stato dirottato. Si può aggiungere poi un'altra nota, che comunque fa parte dell'attualità, senza creare per forza una conseguenza: Michelle Obama va improvvisamente in Cina a fare una visita di cortesia. E che infatti Michelle Obama, che ovviamente accompagna il presidente in tutte le visite, questa volta è andato da sola. E questa cosa viene considerata stranissima, almeno è stata considerata stranissima dai giornali americani, perché nella storia degli Stati Uniti nessuna first lady è mai andata da sola, ma va solamente ad accompagnare il marito, in quanto non ha mai in genere un ruolo pubblico, nessun incarico. In questo caso è andata lei, si è portata le figlie e la madre, ufficialmente per un viaggio culturale. L'è invitata dalla moglie del Presidente della Repubblica cinese, però noi vediamo nelle foto che ha diffuso l'agenzia Nuova Cina e altri che lei, quando scende, non saluta chi l'ha invitata, cioè la moglie del Presidente cinese, saluta lui. L'incontro con il Presidente cinese, che in teoria non può essere un suo pari, né per lui né per lei, sono praticamente due realtà diversissime. Fermati un attimo, Alessandra Zavatta, diamo un attimo le informazioni del traffico, sono già andati un po' oltre. Cosa c'era, secondo voi, in questo aereo di così tanto misterioso per dare corpo a quella che è la ricostruzione che ha fatto per il tempo Alessandra Zavatta? 800 24 0024, tra un istante. Melog, cronache meridiane. Ho 800 24 0024. Oggi vi abbiamo fatto ascoltare un'ipotesi articolata, basata su fonti comunque locali, un possibile scenario che possa essere dietro la scomparsa dell'aereo diretto a Pechino, partito da Kuala Lumpur l'8 marzo, di cui non si sa nulla. Scrivono ascoltatori indignati: capisco, il tuo lavoro consiste nel parlare anche di niente, ma tutto c'è un limite, le seghe mentali ce le facciamo da soli che vengono meglio. Beh, ognuno si faccia le sue con propria soddisfazione. Io do semplicemente voce a una ricostruzione su delle fonti, tutti possono osservare, non è che ho la smania del complottismo, mi sembrava interessante. Ma visto che occorre anche giustamente una ricostruzione su dati più oggettivi, più comunemente condivisi, abbiamo al telefono Fabio Peppucci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a Radio Ascoltatori. Direttore tecnico dell'ANPAC, Associazione Nazionale Piloti Aviazione Commerciale. Lei si è fatto un'idea su questa vicenda e, alla luce anche di quello che ha sentito, qual è il suo punto di vista? Guardi, rimaniamo sempre nel campo delle ipotesi. Non avendo notizie certe del ritrovamento di eventuali oggetti appartenenti all'aeroplano, dobbiamo senz'altro ancora tenerci molto prudenti su qualsiasi giudizio. Il protocollo è questo: finché non si trovano i pezzi non si può dire che è inabissato, questo è sicuro, certo. Beh, diciamo che un aeroplano non può scomparire, un aeroplano di quelle dimensioni non può scomparire. Qualche cosa è successo, che sia atterrato da qualche parte o che comunque finendo il carburante si sia inabissato. Chiaramente noi come tecnici addetti ai lavori rimaniamo sempre molto prudenti fino a quando non ci sono dati oggettivi. Lei, per informazioni di chi ci ascolta, è stato e è comandante anche di aerei, diciamo, di quella stazza, di quelle dimensioni, quindi sì, conosce tecnicamente le caratteristiche di quell'aereo. E in tutta questa vicenda non trova ci sono comunque delle circostanze che non rientrano in nessuno dei protocolli finora osservati? Il fatto che un aereo possa improvvisamente scomparire, perdere ogni traccia, perdere anche tutti i segnalatori che in realtà non si disattivano in automatico o in remoto, quindi una volontà precisa comunque di farlo scomparire, questo è un dato oggettivo. Beh, è sicuramente il fatto che da bordo nessuno dei sistemi che dialoga con gli altri sistemi a terra, quindi parlo del sistema cosiddetto chiamato transponder, quindi è un collegamento diretto tra il radar di terra e gli apparati a bordo, oppure un altro sistema che si chiama ACARS, e in parole povere è un sistema che dà dati di telemetria, come diciamo una macchina di Formula 1 dialoga con i box e quindi riporta un po' l'andamento e il funzionamento di tutti i sistemi di bordo, abbiano smesso di funzionare, è chiaro che è una condizione anomala, e questo può avvenire solamente grazie all'intervento dell'uomo. Quindi diciamo, possiamo dare un dato oggettivo: l'aereo sicuramente è stato reso nella non possibilità, messo nella non possibilità di comunicare con il resto del mondo, quindi è da escludere un improvviso incidente, cioè un'esplosione in volo, un inabissamento, perché comunque qualche segnalazione ci sarebbe dovuta essere. Diciamo che un'esplosione improvvisa comporta anche genera, diciamo, questo scenario, perché interrompe immediatamente tutti i sistemi che la trasmissione di tutti i sistemi che dialogano con le varie stazioni a terra. Ma qui c'è stato un momento, diciamo, di semibuio, poi di riapparizione. Quindi da quello che sappiamo, però, questo non è avvenuto, perché prima è scomparso, poi è stato rivisto, e fino al punto che, ovviamente, avendo un'autonomia limitata e comunque sia carburante per volare la tratta che stava volando, quindi da Kuala Lumpur a Pechino, circa 8 ore d'autonomia, successivamente è verosimile che l'aeroplano o è atterrato da qualche parte o è precipitato. Guardi, i soliti ascoltatori informatissimi dicono: tutti lo sanno, gli addetti ai lavori, l'aereo è stato abbattuto perché ha sconfinato. Non fare sempre l'ingenuo, l'ho detto anche una settimana fa, è un'ipotesi che era stata ipotizzata. Anche questo può essere un dato oggettivamente incontrovertibile, come dice il nostro ascoltatore. Ringrazio l'ascoltatore per la definizione che ha dato. È una ipotesi che è ancora in essere, perché è chiaro che se l'aeromobile interessa delle aree interdette o in ogni caso non si fa identificare, è verosimile che gli stati allertino il loro sistema di sorveglianza, quindi possano anche partire degli aeroplani dedicati all'intercettazione. Ma oggi l'esempio dell'aereo siriano ha battuto, l'abbiamo saputo, è su tutti i giornali, di questo aereo, perché è un aereo passeggeri, sembra possibile che nessuno abbia dato notizia. Di un probabile abbattimento per sconfinamento, non lo so. E per questo dico che potrebbe essere una delle ipotesi, ma mi sembra molto strano, visto che comunque sia l'abbattimento di un aereo è un atto ostile in tutti i sensi, quindi non è possibile che nessuno ne abbia dato notizia. Senta, dei tracciati dei radar diciamo militari, vi risulta che ci sia qualcosa che possa dare altre informazioni perlomeno incontrovertibili, oggettive? Guardi, noi a questo livello non abbiamo questo tipo di informazione certa, per cui non le saprei dire in questo senso se forse la collega giornalista che è intervenuta prima di me ha avuto delle informazioni un pochino più... Ma secondo lei queste informazioni ce le hanno? Questo è il fatto, non le vorranno divulgare, capisco, ma i radar militari possono non avere nessun tipo di informazione sul tracciato di questo aereo? Questa è anche un'altra situazione molto strana, perché probabilmente qualcuno sa qualcosa e in questo momento può essere anche reticente nello scambiare le informazioni che ha con gli altri. Insomma, va bene, questo io ringrazio il comandante Fabio Peppucci per quello che ci ha detto. Come vedete, nonostante che abbiamo dato una prova oggettiva di una persona che comunque si ferma, quelli sono dati irriscontrabili, rimane sempre fittissimo il mistero e qualcuno sicuramente sa e non dice. Questo è l'unico dato di fatto. A domani.